di persone ce ne sono a milioni. Di ragazze poi facciamo anche selezioni. Come Spizza e Pirandello non nessuno è 100.000. Il bello è prendere per te e tutti facciano la fila. Gira come ti gira, poi mi gira se qualcuna se la tira. Prendo la mira, sparo rima dopo rima come prima. Regina dello spettacolo, ogni città sei costretta a cambiare d'abito. Ma dove abito abbiamo un altro stanza. Quando la bellezza passa poi rimane la sostanza. E fondamentalmente non ti rimane nulla. Sulla culla del tuo ego c'era una scritta buia. Qui dorme la principessa sul pisello. Per farla felice basta darle solo quello. Ti lascio andare, se vuoi puoi fare come ti pare. Lo so che te la vuoi tirare. Ti lascio fare ma fai male, male, male, molto male. Non so spiegare com'è che sia la situazione. Ma saltare da fiore in fiore. Ti lascio fare, ma fai male, male, male, molto male. Miss. Mi sono perso, non ricordo qual è il verso. Nell'universo sei la più bella dopo tutto. Hai milioni di amici su Facebook. Certo nelle foto le tue pose danno doppio più. Su e giù per la disco io preferisco stare in pista con gli altri, ma ti capisco. Vuoi il braccialetto per stare nel privé? Se non te lo danno, ma cosa vuoi da me? Io sono quello che si muove quando c'è bordello. Con la compagnia giusta dorme che in ostello. È il bello con cui te la fai. Ti fa da maggiordomo ma se poi non gliela dai. Una mancia poi lancia uno sguardo attonito. Un bacetto sulla guancia non ripaga l'alcolico. Ma è comico, ora si alza il sipario. Non trovo l'amore vero, scrivi pure sul diario. Ti lascio andare, se vuoi puoi fare come ti pare. Lo so che te la puoi tirare. Ti lascio fare ma fai male, male, male, molto male. Non so spiegare com'è che sia la situazione. Ma saltare da fiore in fiore. Ti lascio fare ma fai male, male, male, molto male. Forse non lo so, sarò un po' un'antica. Ma preferisco che la mia ragazza sia un'amica. Non cerco mica una delina da copertina. Non sono un calciatore che le espone con vetrina. Voglio svegliarmi la mattina e fare colazione. Sentirmi dire quando sbaglio anche se ho ragione. Piangere e poi ridere come due vecchi amici. Fare una passeggiata va bene anche in bici. Mi dica non importa dove andiamo e chi siamo. L'importante è stare insieme perché ti amo. Siamo come vogliamo, siamo a volte assai diversi. Tu chiamami sfigato ma non voglio trattenerti. Ti lascio andare, se vuoi puoi fare come ti pare. Lo so che te la puoi tirare. Ti lascio fare ma fai male, male, male, molto male. Non so spiegare com'è che sia la situazione. Ma saltare da fiore in fiore. Ti lascio fare ma fai male, male, male, molto male. Ti lascio andare, se vuoi puoi fare come ti pare. Lo so che te la puoi tirare. Ti lascio fare ma fai male, male, male, molto male. Non so spiegare com'è che sia la situazione. Ma saltare da fiore in fiore. Ti lascio fare ma fai male, male, male, molto male.